Se ti senti troppo solo e non credi più all'amore, non entrare in quel pensiero, in quel mondo niente è vero, abbi più fiducia in te. E se a casa ci stai male, non hai voglia di parlare, non cercare quell'amico per far cose che non dico, troppe volte ci ha provato. Non c'è vita da buttare, apri al massimo il tuo cuore. Se la notte fa rumore, sogna l'alba che verrà. Qui comincia la salita, tu non chiederti perché. Dà più forza alla tua vita con la forza che c'è in te. Non c'è vita da buttare per la fine di un amore. C'è più spazio nel tuo cuore per l'amore che verrà. Se sei un essere normale, senza fisico bestiale, se non fai televisione, del tuo mondo sei campione, anche un sogno può far male. Non c'è vita da buttare, apri al massimo il tuo cuore. Se la notte fa rumore, sogna l'alba che verrà. Qui comincia la salita, tu non chiederti perché. Dà più forza alla tua vita con la forza che c'è in te. Non c'è vita da buttare per la fine di un amore. C'è più spazio nel tuo cuore per l'amore che verrà. Bere troppo ti fa male, non è questa la realtà. Guida piano per favore, sogna l'alba che verrà. Non c'è vita da buttare, apri al massimo il tuo cuore. Se la notte fa rumore, sogna l'alba che verrà. Forza la tua vita con la forza che c'è in te. Bere troppo ti fa male, non è questa la realtà. Guida piano per favore, sogna l'alba che verrà. Non c'è vita da buttare, apri al massimo il tuo cuore.